Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. L'avete riconosciuto? È l'apprendista stregone, episodio capolavoro del magnifico film Fantasia di Walt Disney. Ricavato da una ballata di Goethe e musicato dal compositore francese Paul Ducasse, questo cartone animato è entrato nella storia del cinema. Topolino interpreta il ruolo di un giovane di bottega al quale il datore di lavoro, uno stregone, ordina di fare le pulizie in sua assenza. Lui però si serve di un incantesimo del maestro per dare vita a una scopa affinché compia il lavoro al posto suo. La scopa continua a rovesciare acqua sul pavimento, come le è stato ordinato, fino ad allagare le stanze. Quando Topolino si rende conto di non conoscere la parola magica per porre fine all'incantesimo, spezza la scopa in due con l'accetta, col solo risultato di raddoppiarla perché entrambi i tronconi continuano il lavoro. Solo il ritorno del maestro stregone rimedierà al disastro. Questo episodio compone, insieme ad altri sette, il film Fantasia, realizzato nel 1940 e considerato a tutt'oggi il capolavoro di Disney. L'opera, di carattere spiccatamente sperimentale, è voluta fortemente da Walt Disney in persona, con lo scopo di coniugare musica e immagini. È lui stesso che in un'intervista ribadisce lo spirito con il quale è stata realizzata. Fantasia rappresenta la nostra avventura più eccitante. Finalmente abbiamo trovato un modo per utilizzare nel cartone animato la grande musica di tutti i tempi e l'ondata di nuove idee che essa suscita. Le musiche del film sono eseguite dalla Philadelphia Orchestra, diretta dal grande musicista Leopold Stokowski. La colonna sonora del film assume un significato particolare per la scelta dei brani musicali. La toccata e fuga in re minore di Bach, lo schiaccianoci di Tchaikovsky, la sagra della primavera di Stravinsky la pastorale di Beethoven la danza delle ore di Ponchielli una notte sul Monte Calvo di Mussorgsky. È la prima volta nella storia del cinema, e ovviamente in quella del cinema di animazione, che l'audio ha un ruolo tanto determinante nella produzione di un film. Ecco perché Disney impiega una squadra di tecnici del suono come non se ne sono ancora mai viste. La prima del film, che si tiene a New York il 13 novembre del 1940, è considerata un grande evento, tanto che gli spettatori, pur dovendo recarsi solo in una sala cinematografica, si vestono da sera, in smoking e abito lungo. Fra gli altri in platea siedono due giovani ingegneri. Per loro questa serata è particolarmente importante. I due infatti hanno avuto un ruolo determinante nella realizzazione di questo progetto di Disney e sono estremamente emozionati. Quando le luci si spengono e la proiezione inizia, per i due comincia il test della loro abilità tecnica. Signore e signori, la colonna sonora. Vuole la colonna sonora cortesemente emettere un suono? Beh, non era proprio quello che pensavo. Perché non proviamo qualcos'altro? Fra i tanti primati che ha, Fantasia ne detiene uno importantissimo. È il primo film nella storia del cinema con suono stereofonico, qualcosa di assolutamente sconosciuto all'epoca. Per la sua proiezione, le sale cinematografiche vengono allestite con più di 30 casse acustiche ciascuna, che circondano i posti degli spettatori, ottenendo una nuova esperienza del suono, la sensazione di esservi immersi. È un concetto che spiega in maniera molto chiara l'ingegnere progettista del suono Renato Giussani. Si può approcciare alla fine la soluzione al progetto di una cassa acustica in due modi diversi, cioè o fare una cassa acustica o due casse che tentino, come dicevo prima, di sostituirsi agli esecutori, oppure fare due casse acustiche che tentino, cosa secondo me più corretta, di sostituirsi all'ambiente nel quale è stata effettuata la registrazione e fare in modo che questa informazione sull'ambiente nel quale è stata effettuata la registrazione sia talmente credibile che tutti ci senti portato dentro. Con Fantasia di Walt Disney nasce il suono stereofonico. È la prima volta al mondo che un film regala ai suoi spettatori una sensazione simile, tanto che per anni la stereofonia viene chiamata Fantasound, proprio perché viene identificata con il film stesso. Dietro questa invenzione incredibile c'è sicuramente la volontà di Walt Disney di creare qualcosa di mai sentito, di mai provato, ma c'è anche il lavoro di molti tecnici che riescono a mettere in pratica un sogno. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi la storia di due uomini che hanno reso possibile questo sogno con la loro inventiva e la loro ricerca continua e che siedono in platea alla prima di Fantasia, con il cuore in gola per l'emozione. Per raccontare come sono arrivati fin lì, bisogna tornare indietro di alcuni anni, non di molti in verità, solo 6 o 7. Palo Alto, California. Qui ha sede la Stanford University, istituto privato famoso in tutto il mondo, in particolare per le materie scientifiche e i corsi di ingegneria, informatica e medicina. Gli ex allievi di questa università, considerata una delle più prestigiose del pianeta nel corso degli anni, hanno dato vita ad aziende quali Google, Yahoo, Cisco Systems, Electronic Arts. A noi interessa l'anno accademico 1933-1934. Il corso di ingegneria elettronica è molto affollato e fra gli studenti si instaurano ben presto rapporti camerateschi. Ci si scambiano gli appunti, si cerca di unire le forze per comprendere alcune lezioni veramente difficili, si fanno ricerche e sperimentazioni assieme. Ci sono due studenti che sono particolarmente affiatati. Diventano subito amici, soprattutto perché li unisce una inventiva prorompente, che li fa stare sui banchi ben oltre il suono della campanella della fine lezione. Sono molti i loro insegnanti che li spingono a tentare qualche business insieme. In particolare, il professore di ingegneria elettronica Fred Terman, come ricorda uno dei suoi studenti. Molti professori ci incoraggiavano. Voi due avete un buon background, ci dicevano. Potete di certo ottenere un buon successo se farete qualcosa assieme. A quel tempo non è che fossimo certi che avremmo ottenuto qualche risultato. Non sapevamo nemmeno da che parte iniziare, ma avevamo tanta energia e soprattutto eravamo giovani. È vero, i due futuri ingegneri non sanno ancora bene dove indirizzare le loro forze creative, la loro esuberanza intellettuale. A quel tempo i loro nomi non dicono ancora niente a nessuno, ma oggi vengono sempre pronunciati abbinati l'uno all'altro e rappresentano un grandioso connubio nel campo delle invenzioni tecnologiche. Sono William Hewlett e David Packard. William Hewlett, David Packard. I percorsi di vita che portano i due a conoscersi nelle aule di Stanford sono alquanto simili. William Reddington Hewlett, detto Bill, sente parlare dell'Università di Palo Alto fin da piccolino, dato che suo padre è membro della Stanford Medical School. Per lui, che è un grande appassionato di tutte le scienze in generale, è quasi un fatto scontato diventarne uno studente. Fin da giovanissimo, il suo sogno è fare l'ingegnere, costruire qualcosa che tutti possano usare per rendere la propria vita più semplice e più bella. Dave Packard, invece, è originario del Colorado, ma fin da giovanissimo dimostra un interesse talmente forte per l'ingegneria che Stanford diventa il suo miraggio. Ed ora eccoli, compagni di banco, intenti a fantasticare sul loro futuro. Hanno un certo progetto in mente e attendono soltanto la sessione di laurea per potersi finalmente dedicare a qualcosa di concreto. Ecco come ricorda Bill Hewlett quel momento. Ad un certo punto decidemmo che dovevamo mettere su una ditta e andare avanti. Dovevamo trovare una casa e un garage da usare come ufficio. In perfetta scadenza con i termini di laurea, nel 1939 i due amici portano a compimento il loro percorso di studi. Con il tanto desiderato pezzo di carta in mano, Bill e Dave possono trovarsi un impiego che garantisca loro il sostentamento, ma prendono anche una decisione: trovarsi un posto dove lavorare insieme in tutta tranquillità di sera e nei weekend. Di soldi ne hanno davvero pochi. Tra l'altro Dave ha anche deciso di sposarsi con Lucilla Salter, una ragazza conosciuta a Stanford e che diventa in qualche modo il terzo elemento di questo incontro fortunato tra Dave e Bill. È proprio Lucille a trovare la soluzione per tutti. Al 367 di Edison Avenue, vicino alla Stanford, affittano un appartamentino di 3 stanze più una piccola dépendance e un garage, a soli $45 al mese. I tre vanno a vedere e si guardano tra di loro soddisfatti. È l'ideale. Dave e Lucille prendono l'appartamento. Bill si sistema nella dépendance e così l'affitto se lo dividono. Il garage diventa l'ufficio dei due amici. Created the other half right away, taking all the cash Siamo in un garage di Edison Avenue a Palo Alto, nell'entroterra della baia di San Francisco, in California, vicino alla Stanford University. Nella valle di Santa Clara, famosa per la produzione delle prugne, due amici, ingegneri laureati da poco, Bill Hewlett e Dave Packard, stanno realizzando un loro grande desiderio: creare un laboratorio dove poter sperimentare, inventare, creare qualcosa. Sono due ragazzi brillanti, decisamente molto preparati sotto ogni profilo tecnico, ma con una marcia in più. Hanno voglia di impiegare le proprie conoscenze tecniche per realizzare qualcosa che tutti possano utilizzare nella vita di ogni giorno, per renderla migliore, più comoda, più bella. Ti ricordi, Bill? Portammo nel garage una pressa, un po' di apparecchiature varie, e io avevo anche la macchina. Fondammo la società con ben $538 e una buona idea. Sì, iniziamo col cuocere i pannelli delle nostre apparecchiature nel forno di Lucille, ma poi pensammo che fosse meglio avere un forno tutto nostro, che avesse però anche un refrigeratore, perché i metalli si scaldavano talmente tanto che pigliavano fuoco e dovevamo buttare tutto il nostro lavoro. E come ricorda Lucille, la moglie di Dave Packard, le tocca buttare anche i dolci che fa subito dopo, perché sanno di bruciato. Comunque, i due amici, nelle serate e nei weekend in cui si dedicano alla loro passione, mettono a punto un'idea che hanno dai tempi dell'università: creare un oscillatore audio. Si tratta di un apparecchio che consente di dare il timbro al suono che si vuole ottenere, uno strumento molto utile per i tecnici audio. Bill e Dave costruiscono nel loro garage, con attrezzature minime, un oscillatore al quale danno il nome di 200A. È lo stesso Bill Hewlett che lo descrive. Molto semplicemente, produce un tono variabile, qualcosa del genere... È un po' strano che il primo prodotto venga chiamato così, col numero 200. Ma Bill e Dave non vogliono dare l'impressione di essere due pivellini, e quel numero fa presumere che ci siano altri 199 apparecchi precedenti. Quella lettera A fa invece credere che vi sia una serie di differenti oscillatori con caratteristiche particolari. Non è vero niente. Il 200A è unico, ma è sicuramente il miglior oscillatore audio sulla piazza, come ricorda Michael Malone, uno dei primi impiegati della futura ditta dei due amici. L'audio oscillatore, che è stato il primo prodotto HP, era sicuramente il miglior apparecchio al mondo nel suo genere. Bill e Dave producono dunque il loro 200A, un'apparecchiatura che per i profani è qualcosa di difficile comprensione, ma quello che è certo è che l'abilità con la quale i due ingegneri realizzano il loro primo prodotto non passa inosservata. Negli ambienti scientifici, tra gli esperti di elettronica e nella valle di Santa Clara, la voce corre. Corre e arriva anche dalle parti di Los Angeles, per l'esattezza nel sobborgo di Burbank. Qui ha sede una società che tutto il mondo conosce, amata da milioni di bambini e di adulti, la Walt Disney Productions. I tecnici che stanno mettendo a punto Fantasia, quello che diventerà il capolavoro di Disney ed è tuttora ritenuto tale a distanza di 70 anni, hanno proprio bisogno di un certo quantitativo di oscillatori audio per rendere al meglio il suono del film. È per questo che ne ordinano a Bill Hewlett e Dave Packard ben 8. I due amici si guardano increduli. È proprio la Disney, la grande Disney, ad essere il loro primo cliente. Questo significa forse l'inizio di qualcosa di importante, ma significa anche risolvere due problemi. Il primo è quanto far pagare gli oscillatori. Mettiamo insieme la nostra migliore offerta. Fu Lucille a batter la macchina. Ti ricordi come facemmo il prezzo? Sì, non avevamo nessuna idea dei prezzi a quel tempo. E ce ne uscimmo con un 54,50, no? 54,45. Ora, il secondo problema che hanno i due amici è creare una società. Su come chiamarla non hanno dubbi, le daranno i loro nomi. Ma Hewlett Packard o Packard Hewlett? Se vanno in ordine alfabetico, la prima, ma se vanno in ordine di età, la seconda. I due non sanno proprio decidersi, sono amici per la pelle, nessuno dei due si sognerebbe mai di prevaricare l'altro. Ancora una volta è Lucille a risolvere la situazione con il solito buonsenso femminile. Basta tirare in aria una monetina. Bill sceglie testa e Dave sceglie croce. Pensiamo di sapere tutti com'è andata, visto che la società che il mondo conosce si chiama Hewlett Packard. E invece ci sbagliamo, esce croce. Ha vinto Packard, ma quando va a registrare il nome della società, decide di anteporre quello dell'amico. I due soci si presentano quindi negli studi della Disney Productions di Burbank. Bill e Dave si guardano intorno con ammirazione. La sede degli studi Disney si estende su un'area di oltre 12 ettari, è immensa, realizzata su preciso disegno dello stesso Walt Disney per ottimizzare il lavoro di tutti i vari reparti. I due ingegneri stanno visitando la sede e ne restano davvero impressionati. Il palazzo dell'animazione è posto al centro dell'enorme struttura, mentre ai suoi lati si trovano quelli dove si realizzano gli inchiostri e le pitture e quello dove si gira. Ancora al lato si trovano le palazzine tecniche, quella della post-produzione e quella del suono, dove vengono aggiunti tutti gli effetti e i doppiaggi, oltre alla colonna sonora. È qui che Bill e Dave incontrano i tecnici del suono. Mentre aspettano nella sala riunioni, si guardano intorno e fanno sinceramente fatica a credere che proprio loro in quel momento sono lì, nel cuore creativo della Disney. In quella sede vengono decise le modifiche che si rendono necessarie al 200A, che appositamente per la Disney Productions viene ribattezzato 200B. A vederlo è un semplice scatolotto di metallo con diverse manopole. In realtà racchiude una grande magia. It'll do magic, believe it or not. A bibbidi bobbidi boo. Destini incrociati. L'amicizia è una gran bella cosa e può anche cambiare le nostre vite. Ne sanno qualcosa i protagonisti della puntata di oggi di Destini Incrociati, Bill Hewlett e Dave Packard, fondatori dell'omonima società che si incontrano sui banchi della Stanford University di Palo Alto, California. Qui i due si laureano in ingegneria elettronica e nel garage della casa che hanno affittato insieme mettono a punto un'apparecchiatura unica nel suo genere e assolutamente innovativa, un oscillatore audio. Fortuna vuole che proprio in quel periodo, siamo nel 1939, la Walt Disney Productions stia mettendo a punto il film di animazione considerato ancora oggi il suo capolavoro per eccellenza, Fantasia. Si tratta di una pellicola dove la colonna sonora è estremamente importante, trattandosi di musiche classiche di Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Stravinsky. Per questo i tecnici del suono della Disney richiedono a Hewlett e Packard ben 8 oscillatori. È l'inizio di una collaborazione fra due giovani amici che dura tutta la vita e porta alla creazione di un'azienda che oggi è conosciuta in tutto il mondo. Le richieste di collaborazione e di apparecchiature sempre più sofisticate arrivano al garage di Edison Avenue. Bill e Dave comprendono la necessità di trovare un luogo più adatto per la loro società. Tra l'altro, anche Bill si sposa con Flora Lampson e quindi deve trovarsi una sistemazione adeguata alla sua nuova famiglia. Hewlett e Packard si spostano, ma di poco, in Page Mill Road. Ora hanno una vera sede, veri uffici e collaboratori che li aiutano, ma Bill e Dave continuano ad essere gli stessi di prima, due ragazzi con un sogno da realizzare. Provano di tutto. La loro creatività è senza limiti, come ricorda Bill. La nostra prima esigenza era quella di realizzare dei guadagni. Provammo a costruire di tutto. Realizzammo un'apparecchiatura elettrica per la gente che voleva dimagrire, un accordatore per gli harmonium, un motorino elettrico per trattori, un aggeggio per i bowling. Insomma, veramente di tutto. Negli anni che seguono, Hewlett e Packard portano avanti il loro disegno di azienda e costruiscono diversi prodotti nel campo dell'elettronica, in particolare i calcolatori che diventano famosissimi e leader di mercato. Bill e Dave si combinano perfettamente. Il primo è l'anima tecnica del duo, un ingegnere bravissimo, con un'inventiva unica. Dave è invece più abile nel lato finanziario, ma è anche vero che il loro sodalizio ha una caratteristica ben precisa. Non ci sono ruoli ben divisi e in ogni istante tutto può accadere. E proprio in questi momenti, quando i due amici sono seduti alla scrivania davanti a una bella tazza di caffè fumante, che i loro cervelli funzionano a pieno ritmo. E infatti Bill se ne esce con una delle sue. Siamo negli anni 60. Il computer deve ancora fare la sua apparizione e attualmente l'apparecchiatura più innovativa è il calcolatore elettronico, che consente numerose funzioni, tra cui la radice quadrata, i logaritmi, le funzioni trigonometriche. Ma stiamo parlando di oggetti di una certa dimensione e di un discreto peso, che trovano posto solo sulle scrivanie degli uffici. Bill usa sempre camicie col taschino. Ha la passione delle penne e porta sempre con sé un blocchetto con alcuni fogli. Non ci dimentichiamo che è un ingegnere, ha sempre qualche calcolo da fare, qualche appunto da prendere. E non è il solo. Per ogni matematico c'è un senso d'infinito nel dar la caccia ai numeri già sfuggenti di per sé. C'è un sogno pitagorico che a me non è servito, adesso che nel 2x3 so cosa sei per me. La domanda che si pone Bill Hewlett è: che cosa vorrebbe un ingegnere più di tutto? Potersi portare sempre dietro il suo calcolatore da tavolo. Una follia. Stiamo parlando di apparecchiature estremamente sofisticate, che richiedono un certo tipo di struttura. I calcolatori sono ingombranti, pesanti, hanno il cavo dell'alimentazione che li blocca a una presa. Insomma, nulla di più lontano da qualcosa di portatile. Ma Bill insiste. Lui vuole creare un calcolatore che stia niente di meno che nel suo taschino della camicia. Dave ascolta attentamente il suo amico e socio mentre parla. Lo conosce da molti anni e sa che non dice mai sciocchezze. Se Bill pensa che un apparecchio del genere possa essere costruito, beh, Dave ci crede. È un'idea straordinaria, come sostiene Guy Kawasaki, storico delle innovazioni tecnologiche. L'idea era quella di far passare gli ingegneri dall'uso del regolo a quello del calcolatore tascabile. Era qualcosa di straordinario. Gli ingegneri si mettono al lavoro e nel giro di alcuni mesi la sfida viene vinta. Bill, Dave e i loro collaboratori producono la calcolatrice HP35, così chiamata semplicemente perché ha 35 tasti. È un prodotto assolutamente unico, sia sotto il profilo delle funzioni tecniche, sia sotto quello delle dimensioni. Louis Platt, attuale direttore generale della Hewlett-Packard, ricorda quel momento storico. La Hewlett-Packard a quel tempo realizzava calcolatori che stavano sulla scrivania. Ma Bill aveva pensato tanto alla miniaturizzazione, aveva sfidato i suoi ingegneri a creare qualcosa che potesse entrare nel suo taschino. Era un'idea incredibilmente coraggiosa per quel tempo, ma ci riuscirono. Naturalmente un difetto ce l'ha. È carissima, costa la bellezza di $350. Dave Packard è nell'ufficio di Bill Hewlett, suo amico e socio in affari. Il suo ruolo di responsabile finanziario gli impone di mettere sul piatto della bilancia i rischi che un progetto del genere comporta. La HP35 è molto costosa. Forse è meglio fare un'indagine di mercato per verificare le potenzialità e i limiti della calcolatrice tascabile. Bill non ha nulla da obiettare. Ma quando l'indagine rivela che l'oggetto in questione è troppo costoso e nessuno lo comprerebbe, va avanti per la sua strada e ne produce comunque 10.000 pezzi. Karen Lewis, impiegata di Hewlett-Packard, ricorda bene quel momento. Mi ricordo che stavamo tutti in fila per cercare di comprare quella cosa. La gente diventava matta. Nei successivi 18 mesi vengono vendute 100.000 calcolatrici tascabili. È quasi impossibile stare dietro agli ordini che arrivano da tutto il paese. Per Bill e Dave è la consacrazione di un pensiero, credere fermamente in un progetto e portarlo avanti nonostante tutto. Per i due amici, i tempi del garage in Edison Avenue non sono mai cambiati. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low, you cannot fall, would you change? Would you change? Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati vi racconta la storia di un'amicizia molto profonda tra due compagni di studi, due ingegneri elettronici laureatisi alla Stanford University di Palo Alto, California. I loro nomi sono Bill Hewlett e Dave Packard. La loro passione comune per l'elettronica e la grande fiducia reciproca portano i due amici a realizzare il loro sogno: creare una società tutta loro per produrre apparecchiature tecniche ed elettroniche che rendano migliore e più piacevole la vita delle persone. È un'attitudine che molti anni più avanti Dave Packard spiega ampiamente nel suo libro The HP Way. Bill e io abbiamo sempre voluto comportarci con coloro che lavoravano con noi come ci comportavamo tra noi due, avendo fiducia, dando spazio alla creatività e soprattutto pensando tutti insieme a come rendere migliore la vita di tutti quanti. Quello che abbiamo sempre cercato di ottenere è in fin dei conti null'altro che il cercare con tutte le nostre forze di rendere migliore e più comoda la vita di tutti. Rendere migliore e più comoda la vita di tutti è in primo luogo quella dei propri dipendenti. Bill e Dave la pensano allo stesso modo. Non lavorerebbero mai per qualcuno che non li chiami per nome, che non conosca la loro situazione familiare, che non sappia se hanno un problema che li assilla. E non lavorerebbero mai in condizioni disagevoli. Sanno che se sei contento quando vai a lavorare, contribuirai a dare un valore aggiunto al tuo operato. Questo si traduce in una serie di innovazioni che la Hewlett-Packard per prima introduce nel mondo del lavoro. Una di queste è il tempo elastico, un concetto assolutamente innovativo che è proprio Bill a volere. Lo spiega lui stesso in un'intervista. A Dave e a me interessa la salute fisica, sì, ma anche mentale dei nostri impiegati. Nei nostri laboratori ci sono tante cose da fare e non c'è tempo per timbrare il cartellino. Per questo ci siamo inventati l'orario flessibile. Puoi venire a lavorare in qualsiasi momento tra le 6 e le 9 e fare le ore che devi fare. Questo è il tipico esempio di come nei nostri laboratori sono state tolte tutte quelle cose che non sono necessarie. E con questo stesso spirito, togliere quello che non è necessario, che nella sede di Page Mill Road Bill Hewlett e Dave Packard operano un'incredibile rivoluzione non solo nel campo dell'elettronica, ma anche in quello dell'architettura di interni. I loro uffici, o come preferisce chiamarli Bill, i laboratori, vengono completamente ristrutturati. Il palazzo viene sventrato e tutti i muri divisori abbattuti. Tra una postazione di lavoro e l'altra vengono create paratie leggere e ad altezza d'uomo che consentono a chi sta seduto di avere una certa tranquillità e privacy, ma a chi sta in piedi di parlare agevolmente col vicino. Nasce così l'open space. Le idee devono potersi muovere, spostare, rimbalzare da una mente all'altra. Ecco cosa pensano Bill e Dave. Solo così si può progredire. E difatti l'azienda progredisce rapidamente, ampliando la propria importanza, diventando leader mondiale nel campo della strumentazione elettronica, coprendo anche il settore informatico con soluzioni hardware all'avanguardia. Ad essa si deve l'introduzione sul mercato dello standard di comunicazione IEEE 488, detto anche HPIB, utilizzato universalmente per interfacciare i computer con gli strumenti di misura elettronici. Una rivoluzione grandiosa, un modo di concepire il lavoro e la produzione di Bill Hewlett e Dave Packard. Esso diviene negli anni una vera e propria filosofia che influenza anche altri loro colleghi. È così che il luogo dove loro hanno iniziato e dove continuano a lavorare diviene una sorta di polo catalizzatore per moltissimi produttori di componenti elettroniche. Molto particolare nella Santa Clara Valley a Palo Alto, in California. Si estende per circa 3 ettari in una zona che costeggia Page Mill Road. In questo parco non crescono alberi, ma si trovano attualmente la bellezza di 162 edifici, in cui lavorano circa 23.000 dipendenti di 140 aziende. È lo Stanford Research Park, un parco tecnologico costruito sui terreni della Stanford University. Padre di questo progetto è Fred Terman, professore di ingegneria elettronica che molti anni prima ha incoraggiato due giovani studenti del suo corso a tentare la fortuna creando una propria società, Bill Hewlett e Dave Packard. ma se i due amici hanno nei confronti di Fred Terman un debito di riconoscenza per aver creduto in loro e averli incoraggiati, il loro ex professore deve ai due ingegneri l'idea che lo porta a realizzare uno dei progetti più famosi al mondo nel campo dell'elettronica e della ricerca tecnologica, la Silicon Valley. Ne è convinto anche lo storico delle innovazioni tecnologiche Guy Kawasaki. La HP è stata di ispirazione per l'intera valle, non c'è alcun dubbio. La Valle del Silicio, termine coniato nel 1971 dal giornalista Don Hoefler, direttore della rivista Microelectronic News, si chiama così per la fortissima concentrazione di aziende legate ai software, ai semiconduttori e ai computer, che realizzano prodotti con una quantità molto elevata di silicio nei loro componenti. È considerata la Cyber City più grande degli Stati Uniti, insieme alle aree di New York e Washington. E sebbene il suo business principale sia tuttora quello dei componenti in silicio per conduttori e semiconduttori, la Valle si distingue per un elevatissimo livello di innovazione nel campo dei software e di Internet. È qui, nella Silicon Valley, che nascono aziende come Xerox, Microsoft e Apple, realtà che cambiano il mondo nel giro di alcuni decenni. Steve Jobs in persona racconta in un'intervista come visitare i luoghi dove tutto ha inizio abbia rappresentato per lui una fonte di ispirazione grandissima. Tanto che anni dopo, il produttore e sceneggiatore Martin Burke realizza il film I Pirati di Silicon Valley. È la storia dei giovanissimi Bill Gates e Steve Jobs, che nella metà degli anni 70 arrivano a realizzare il sogno del PC in una corsa che culmina con l'introduzione del popolare Apple Macintosh e col trionfo dei sistemi operativi Microsoft. In questo Steve era un genio. Aveva convinto la Xerox a mostrarci quelle innovazioni sviluppate dal team californiano e vi giuro che la cosa li aveva fatti impazzire tutti. E tutto avviene qui, a un passo da quel garage di Edison Avenue, dove due giovani ingegneri danno il via a una vera e propria rivoluzione tecnologica mondiale. Tanto che quel garage, simbolo di innovazione e spirito imprenditoriale, è dichiarato ufficialmente nel 1987 Monumento Nazionale della California e luogo di nascita della Silicon Valley nel 1989. Decisamente un risultato eccezionale per i due giovani ingegneri che hanno saputo vivere sempre alla loro maniera e mantenere fede all'amicizia che li ha legati per tutta la vita. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.